Giovedì 18 ottobre del 2012, 87.900, la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa. Questo è l'appuntamento con Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema e per comunicare con noi. I contatti sono, per quanto riguarda la posta elettronica, visionari@ondarossa.info, e per gli sms in diretta 342-357-4357. Per controllare tutte le informazioni sulla scaletta della trasmissione di oggi basta consultare il sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Partiamo subito con la voce in studio, perché abbiamo con noi Massimo Vattani. Intanto ben ritrovato. Grazie, caro. Grazie molte. Come stai? Tutto abbastanza difficoltoso, grazie. Bisogna smetterla di dire tutto bene, però insomma, diciamo, dal punto di vista cinematografico l'impegno e la passione è sempre al massimo, nonostante Fiorito e company. Ce la caviamo, sì. Mettiamola così. Senti, abbiamo anche un'altra ospite in sì, studio. È Paola che ci aiuta, diciamo, alla traduzione dell'intervista che realizziamo oggi e per la quale tu ci ospiti, che è l'intervista con Sylvain George. Trattasi di un giovane cineasta francese di cui siamo particolarmente lieti di ospitarlo in questa intervista, ma ancora di più siamo lieti, e ci fa un enorme piacere proporre il suo ultimo film in una 3 giorni al Nuovo Cinema Aquila, all'interno della ancora di Non Contest 2013, perché partirà ad aprile e si caratterizzerà come un vero e proprio concorso italiano più ristretto nel tempo. Ma in questa, diciamo, cappello, questa sigla temporanea che è Aspettando Contest, che ci consente, vista la grande richiesta e vista la grande produzione di documentari sempre di grande qualità, di programmare, come abbiamo fatto per il mese di ottobre, 4 documentari, 2 sono andati, l'appuntamento con Les Eclés è il terzo, e termineremo questo appuntamento a fine ottobre, il 29 e il 30, con la proiezione di Cadenas, opera prima di Francesca Balbo. C'è da dire, in questa breve introduzione, che la proiezione di Les Eclés, che è l'ultimo film di Sylvain George, io controllo la traduzione. Sì, che già ho sbagliato, è Les Eclats. Subito sguardi di fuoco che ci fanno capire il livello della professionalità della traduttrice in questo caso. E, diciamo, è la prima volta che Contest, che nasce come una rassegna dedicata appunto al far emergere i documentari italiani, offrire uno spazio di visione in maniera stabile, come è il tentativo appunto di proporre il documentario in sala, obiettivo principale della rassegna Contest. Diciamo, è la prima volta che ospitiamo un documentario internazionale, e questo è dovuto all'iniziativa di Les Eclats Italia, coordinata Paola Cassano e Caterina Renzi, che vanno ringraziate tantissimo, perché il film di Sylvain George non ha distribuzione in Italia, e quindi questo è un tentativo di proporre all'attenzione degli appassionati di documentari, ma anche all'interno della programmazione dei cinema cosiddetti normali, tra virgolette, possono apprezzare i suoi lavori, il suo modo di fare cinema, che è assolutamente particolare, che si dedica in particolar modo alla questione dell'immigrazione, che dal mio modo di vedere fornisce elementi in più per comprendere la reale condizione sia delle politiche migratorie, ma soprattutto e sostanzialmente una particolare attenzione alle persone, ai soggetti che spesso vengono filmati all'interno di questi documentari. Allora, ricordiamo intanto le date: da lunedì 22 a mercoledì 24, con 2 proiezioni serali, 20:30, 22:30. Sylvain sta lavorando al suo ultimo progetto, di cui parleremo al termine di questa breve intervista, e non possiamo averlo con noi, questo ce ne dispiace, ma sarà il suo lavoro introdotto da Cristina Piccino, critica cinematografica del Manifesto, che conoscete benissimo, che possiamo considerare la persona che conosce più a fondo il personaggio, ma soprattutto la filmografia e l'apprezzamento per i lavori di Sylvain George. Quindi lunedì l'appuntamento con la presentazione, ore 20:30, ma nei limiti del possibile frequentate anche gli altri giorni se ne avete tempo, perché si tratta di un'occasione importante, di un film importante che merita di essere visto. Allora, due parole di introduzione all'Esecla prima di sentire l'autore, io direi Massimo. Per chi ci ascolta, orientiamo un attimo chi ci ascolta. Alcune cose, diciamo, sono le stesse che poi anticiperemo e potremo poi successivamente spiegare nelle domande che facciamo a Sylvain George, che molto probabilmente saranno anche le domande che ripetutamente lui riceve, ma che in qualche maniera facciamo volentieri e superiamo questa piccola impasse, proprio perché i lavori di Sylvain George qui a Roma credo non siano conosciuti moltissimo e quindi ci concentriamo sulla natura dei suoi film e del suo interesse. In particolare, l'ho detto prima, ha un particolare interesse, come ripeto, per la questione dell'immigrazione, delle politiche migratorie, a cui ha dedicato ben tre dei suoi ultimi film. I motivi e le argomentazioni per cui questo interesse si è concentrato appunto sulla questione dell'immigrazione sarà lui stesso a spiegarceli tra pochissimo. Bene, allora ci colleghiamo subito per questa chiacchierata. Bene. Sylvain, intanto grazie per la tua disponibilità ad accogliere appunto questo nostro desiderio di realizzare questa intervista con te. On va vous remercier pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. E, iniziamo a farti delle domande che anticipano, sono il preludio alla proiezione di uno dei tuoi film, l'ultimo, Les Éclats, che proietteremo il 22, il 23 e il 24 qui a Roma al Nuovo Cinema Aquila. Il film è all'interno di una rassegna che si propone di proporre il documentario in sala. Il tuo è il primo documentario internazionale che ospitiamo e questo ci fa particolarmente contenti. Alors, votre film Les Éclats va être projeté le 22, le 23, le 24 de la semaine prochaine d'octobre dans un festival de documentaire international. Le vôtre, ça sera le premier documentaire international projeté dans ce festival. Là, j'en suis très heureux, je ne savais pas, j'en suis très très heureux. Non lo sapeva, è una novità per lui, ma ne è molto molto. Je ne savais pas que c'était le premier documentaire et je suis très très heureux et fier de cette projection alors. E non sapeva che era soprattutto il primo documentario proiettato ed è molto fiero di questa cosa. Bene, iniziamo a parlare un po' sulle particolarità, sulle caratteristiche del film, dell'Esecla, ma in generale anche sulla tua impostazione e il tuo modo di lavorare sul cinema. Alors, on va parler de votre film et surtout de la façon que vous avez de réaliser vos œuvres. La prima cosa che voglio chiederti è quali siano le ragioni, evidenti o meno evidenti, che ti hanno portato a dedicare molti dei tuoi film al tema dell'immigrazione. Alors, quelles sont les raisons, soit les plus éclatantes que les moins évidentes, qui vous ont poussé à dédier beaucoup de vos œuvres au thème des migrants? Je crois que les questions migratoires sont un parfait indicateur, en fait, pour essayer de comprendre et pour rendre compte de nos sociétés contemporaines et des démocraties occidentales. Ok, dice che le questioni delle migrazioni sono degli indicatori molto importanti per capire qual è diciamo lo stato delle democrazie delle nostre società contemporanee. Et à travers ces questions migratoires, à travers cette politique migratoire, évidemment, on parle de politique, donc de politique et de dispositifs qui sont mis à l'endroit, qui sont en tous les cas destinés aussi au plus grand nombre, et pas uniquement aux migrants. E praticamente attraverso le politiche migratorie, le disposizioni proprio di legge sulle politiche migratorie, in realtà è un modo per parlare più in generale proprio delle disposizioni rispetto proprio a tutta la società. Quindi come noi trattiamo i migranti, ovviamente trattiamo tutta la nostra società, questo è un po' il senso. Mon idée c'est che le politiche occidentali crea des espaces d'exception. Crée des interstices, des zones grises, des espaces d'exception dans lesquels le droit des individus est complètement bafoué. Ok, allora praticamente le politiche occidentali fanno come una sorta di piccoli buchi, cioè delle eccezioni attraverso proprio queste politiche dei migranti, e che sono delle vere e proprie eccezioni rispetto ai diritti proprio di tutte le persone. Quindi è come se... On le voit de façon flagrante à l'endroit des immigrés, que ce soit à Calais comme dans d'autres endroits en Europe, en Grèce, en Italie, ou bien aussi au Moyen-Orient ou en Afrique, mais c'est aussi valable pour les autres individus occidentaux. È praticamente molto facile, molto folgorante vedere appunto queste politiche attraverso quello che succede non soltanto in Francia, a Calais, ma attraverso quello che succede in Grecia, in Italia, in Medio Oriente, con appunto i rifugiati, i migranti, ed è molto significativo il modo insomma, che hanno di rapportarsi a queste tematiche. Les migrants sont systématiquement accusés de l'ensemble des maux des sociétés contemporaines, chômage, terrorisme, peur, etc., etc. Sì, allora i migranti sono accusati delle peggiori cose, cioè terrorismo, furti, cose insomma di tutti i tipi. È molto facile insomma accusarli rispetto a tutte queste cose. Mais dans le même temps, les individus européens sont traités pour certaines catégories de population de la même façon. Un chômeur, par exemple, n'est plus quelqu'un qui n'a pas un emploi, c'est quelqu'un qui est inapte à l'emploi. Ah, e praticamente questo stesso modo di vedere le persone lo si può per esempio vedere anche rispetto a cittadini proprio, anche proprio delle cittadini proprio delle stesse nazioni. Un esempio sono i disoccupati, che non vengono più visti come persone che hanno un problema rispetto al lavoro, ma delle persone che proprio sono inadatti al lavoro, cioè vengono visti come delle persone che quasi non vogliono lavorare. Un ouvrier, un employé, une personne qui veut revendiquer ses droits et qui se met en grève, ne fait plus une grève pour défendre ses droits, elle est accusée d'empêcher les gens de travailler. Donc il y a une criminalisation systématique des paroles d'opposition. Praticamente, per esempio, quando un impiegato o un operaio decide di scioperare, viene vista dall'opinione pubblica non più come una persona che rivendica dei diritti, ma semplicemente una persona che vuole impedire ad altri di lavorare. Quindi c'è proprio una strategia, in un certo senso, dice Silva, una strategia politica per far vedere certi temi da un'ottica differente dalla realtà. De nouvelles lois sont votées qui vont réduire les libertés et les possibilités pour les migrants de venir en Europe. Dans le même temps, des lois sont votées qui font que les individus européens ont de moins en moins de droits, dont notamment celui de manifester. On le voit en France, on le voit en Italie, on le voit en Grèce, on le voit aujourd'hui en Espagne, où des personnes ne peuvent plus aller dans la rue pour manifester sans se faire accuser de criminalisation, de criminel. On le voit avec le mouvement des indignés, par exemple. Praticamente non solo ci sono appunto dei politici che sono eletti proprio su queste tematiche, che ne fanno come una sorta di cavallo di battaglia, ma vengono approvate delle leggi che non solo impediscono appunto la circolazione dei migranti, ma addirittura si è arrivati ad avere anche contro la libertà di manifestare, facendo vedere che chi manifesta praticamente è come se fosse un criminale, e questo è quello che sta succedendo in Italia, in Francia o con i movimenti per esempio degli indignados. Quindi impediscono le manifestazioni facendole passare come un gruppo di criminali che vuole insomma fare creare voilà. Casino insomma. Sì, voilà. Je peux poursuivre encore longtemps, je ne sais pas s'il y a une autre question. Sì, volevo un'altra domanda. Sì, la seconda cosa che volevamo chiederti e che ci interessa in maniera particolare si riferisce al fatto che hai dedicato ben 3 dei tuoi lavori a Calais. Questo è dovuto alla volontà di monitorare quel luogo e le persone che lo animano e vivono in attesa di emigrare, oppure è solo una conseguenza del tuo conosciuto modo di far cinema, in cui vuoi sempre avere il tempo necessario per entrare in confidenza con le persone e i luoghi che filmi? Allora, 3 de vos films ont été tournés à Calais. Cela est dû à la volonté d'observer ce lieu avec ses habitants qui, en attendant de migrer vers l'Angleterre, l'animent, ou seulement pour avoir tout le temps pour entrer en relation avec les personnages et les lieux que vous avez filmés? En fait, je travaille sur un projet depuis longtemps, depuis de plusieurs années, sur les politiques migratoires en Europe et les mouvements sociaux. Et mon idée, c'est à la fois de traiter des politiques européennes en France, en Italie, en Espagne, comme aussi au Maghreb, puisque l'Europe a des accords d'externalisation avec l'Afrique notamment. Ok. Alors, en effet, lui lavora su un progetto da molti anni proprio sulle politiche della migrazione e su tutte le leggi che sono state fatte per appunto le questioni dei migranti. Quindi era un tema che lui comunque aveva molto forte, che, al quale si è dedicato molti anni prima di girare. Sì. Voilà. Et il se trouve que j'ai décidé d'ouvrir ce travail par une zone de transit très très célèbre en France, qui est la ville de Calais, qui est une ville très célèbre depuis 2002, date à laquelle le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait fermé un camp géré par la Croix-Rouge qui s'appelait Sangas. Donc c'est un lieu qui est extrêmement connu en France d'un point de vue politique et médiatique. Ok. Allora, in un certo senso lui che cosa ha fatto? Ha utilizzato questo campo che era molto celebre soprattutto dal 2002, perché è stato chiuso da Sarkozy nel 2002, ed era un campo che era molto famoso in Francia ed era conosciuto proprio come una zona di transito. Quindi in un certo senso lui ha scelto proprio quel posto perché mediaticamente era un posto che era vicino a, cioè che tutti già lo conoscevano. Ça me semble intéressant d'ouvrir ce travail par une zone de transit, comme celle de Calais notamment, parce qu'elle est pour moi emblématique des politiques européennes. À Calais, qui est une petite ville, pardon. Sì, sì. E praticamente è molto importante il fatto che per lui era quella di raccontare proprio quello che è una zona di transito e che è in un certo senso rappresentativo rispetto a quello che è la politica riguardo ai migranti della comunità europea, questo vuol dire, cioè essendo un posto di Calais est une petite ville sinistrée économiquement parlant, il y a énormément de chômage, elle est de taille très réduite et en fait lorsque l'on se trouve à Calais, on voit de façon extrêmement visible les effets, les conséquences, les dispositifs, pardon, les effets et les conséquences des politiques européennes en matière d'immigration. Allora, praticamente poi Calais è un posto abbastanza significativo, perché in realtà Calais era già un posto che aveva, lui dice addirittura sinistré, cioè era un posto che aveva già grandi difficoltà da un punto di vista di occupazione, era una zona molto particolare da un punto di vista economico e quindi ovviamente questa situazione ha reso molto più forte quello che erano gli effetti delle politiche immigratorie si vedevano in maniera molto più forte le politiche economiche della comunità europea. Sì. Voilà, donc ça me semble intéressant de faire d'ouvrir ce travail par cette ville où les choses se donnent à voir de façon extrêmement extrêmement visible et donc aussi extrêmement violent. On voit quelle est ce que peut être la violence européenne, la violence d'État et la violence policière. E praticamente è molto interessante perché essendo una piccolissima città è molto facile poi vedere quello che è stato la violenza sia della polizia sia della politica, perché evidentemente c'è stata una reazione molto violenta da parte dello Stato e quindi lì essendo un posto molto piccolo. On peut y voir aussi des stratégies de résistance, c'est-à-dire comment les individus, malgré les rapports de force extrêmement inégaux, comment les individus arrivent à leur fin, arrivent à se construire, à inventer des contre-dispositifs aux dispositifs européens chargés de les empêcher d'être en Europe ou d'aller en Angleterre. Mon approche a été dialectique, c'est-à-dire il s'agit à la fois de montrer les conséquences des politiques européennes et dans le même temps comment les individus arrivent à leur fin, arrivent à trouver des moyens de résistance. Ah, perfetto. Allora, lui dice una cosa molto giusta, dice quello che io volevo fare non solo è appunto far vedere in modo molto evidente la strategia politica contro appunto questi immigrati, cioè queste persone in transito, ma soprattutto la parte che gli interessava di più è vedere queste persone come riuscivano a sviluppare una loro strategia di resistenza rispetto a una repressione molto molto violenta che c'è stata, e quindi era molto interessante vedere questi qua come riuscivano poi finalmente anche a partire per l'Inghilterra. Oui. Ok, c'è una cosa particolare che si riferisce a, diciamo, perlomeno delle cose che ho letto qui in Italia, di come viene interpretato il tuo cinema, che di volta in volta viene definito cinema militante e cinema politico. Volevo sapere qual è il significato che tu dai a queste interpretazioni e dove realmente collochi la tua ricerca, i tuoi lavori. Allora, a chaque fois, la façon de réaliser vos œuvres est définie soit politique que militant. Quel est le significat que donnez-vous à ces interprétations? Exactement où vous placez votre recherche dans vos œuvres? C'est une grande question. moi, je fais du cinéma. Mais j'essaie de construire un cinéma qui prenne et de faire des images, de fabriquer des images qui prennent position par rapport à un certain nombre de réalités et d'enjeux qui pour moi sont parmi les plus cruciaux aujourd'hui. Lui in realtà dice che la cosa che per lui è più importante è che lui fa cinema e praticamente il suo interesse è quello di fabbricare, cioè di realizzare delle posizioni rispetto a quello che succede intorno a lui. Quindi lui prende... voilà. L'idée, c'est d'attester de ces réalités-là de la façon la plus radicale et de prendre position. J'essaie de travailler sur mon rapport, comment dirais-je. Le cinéma, c'est un outil dialectique qui permet d'inscrire et de se définir soi-même dans son rapport au monde. C'est donc aussi un instrument qui permet de se positionner par rapport au monde et donc de prendre position. Oui, attendez. Alors, dice che praticamente il cinema gli dà la possibilità non solo di mostrare quello che sta succedendo, ma soprattutto di prenderne una posizione. E questo è il suo attraverso, quindi la sua posizione rispetto al mondo che vive. Non so se sono stata chiara. Alors c'est un type de cinéma, donc c'est un type de cinéma qui évidemment n'est pas très répandu aujourd'hui, d'autant que s'il existe par exemple beaucoup de films sur les migrants, il y a très peu de films qui essaient d'aborder la question des migrants d'un point de vue politique. La plupart des films travaillent la question des migrants d'un point de vue extrêmement ou bien humanitaire ou bien très social ou bien très compassionnel. Okay. Moi j'essaie d'avoir... Pardon. Allora, praticamente lui dice praticamente che lui fa dei film sui migranti da un punto di vista politico, mentre, e questo non è molto diffuso come modo di fare cinema, perché normalmente quando si parla di migranti o si mostrano i migranti, lo si fa sempre con un occhio umanitario, quindi un occhio di aiuto, sostegno, però sarebbe il pietismo che della tua domanda successiva, insomma, in un certo senso. E lui invece no, lui lo vede proprio da un punto di vista politico. Je considère que les personnes migrantes sont des sujets politiques, sont des sujets des êtres humains, des personnes, donc des sujets politiques, des vies politiques, comme vous et moi, et il importe d'avoir une position comme ça très égalitaire vis-à-vis de ces personnes. Praticamente per lui i migranti sono dei soggetti politici come tutti noi, e quindi bisogna, secondo lui, vederli attraverso uno sguardo egalitaire, cioè di uguaglianza, e quindi sono dei soggetti politici come noi, basta, e quindi molto concreto, insomma, il suo approccio. Donc lorsque je travaille sur les politiques migratoires, j'essaie de faire un travail qui essaie de comprendre ce que sont ces politiques, qui essaie de montrer quels sont les dispositifs chargés de les appliquer, quelles sont les conséquences de ces politiques-là. Dans le même temps, donc je fais œuvre de connaissance, puisqu'il ne s'agit absolument pas d'illustrer une thèse, quand bien même, à la base, et d'un point de vue théorique, je suis contre les politiques qui ont lieu actuellement ou qui sont aujourd'hui actuellement en vigueur. Allora lui, quando si rapporta appunto a queste politiche migratorie, lui innanzitutto le studia, le osserva, cerca di capire le conseguenze e soprattutto cerca di capire che cosa sta succedendo, cioè quali sono queste politiche migratorie, insomma, da quello che mi sembra di capire è un approccio da studioso. Sylvain, abbiamo... Je pense qu'on peut faire, on peut construire des films qui sont à la fois extrêmement, qui font œuvre de connaissance, qui explorent des réalités, qui prennent position par rapport à des politiques qui façonnent des réalités de façon inacceptable, et qui dans le même temps ne tombent pas dans le prosélytisme ou le film de propagande. Ecco, lui dice che si possono realizzare dei film che mostrino con concretezza quello che succede, che possano prendere delle posizioni e che soprattutto non abbiano una posizione, insomma, non reale, non concreta, insomma, da quello che... Ce qui m'importe, c'est de faire surgir, de faire ressortir, de mettre en évidence des personnes qui sont bafouées, qui sont opprimées, des choses qui sont oubliées, des éléments qui sont considérés comme minoritaires. Sì, cioè lui vuole far vedere proprio tutto quello che riguarda queste persone che in un certo senso sono dimenticate, un po' quello che sta succedendo da noi con questa storia dei rifugiati, no? Di tutti i soldi spesi per i rifugiati, in realtà ai rifugiati non è arrivato niente, quindi sì. Lui questo vuole far tirare fuori proprio l'essere umano. C'est pour moi ce que j'appelle le cinéma politique et militant, terme que je veux bien accepter, que je veux bien accepter dans le sens où dans le même temps, mais je souhaite que ces politiques qui sont aujourd'hui en vigueur, les politiques européennes, politiques qui sont absolument inacceptables parce que elles conduisent à la mort de milliers et de milliers d'hommes en Europe comme ailleurs dans le monde, je souhaite que ces politiques soient interrompues et cessent le plus rapidement possible. Allora, lui proprio ci tiene a essere definito come il suo un cinema politico, dice accetto anche quello militante, ma per me è molto importante il cinema politico perché le politiche sulle migrazioni sono politiche inaccettabili che fanno migliaia di morti e che assolutamente vanno interrotte. Silvana, abbiamo diciamo il tempo soltanto per un'ultima domanda, anche se vorremmo rimanere ancora in contatto con te per molto tempo e avremo molte cose da chiederti ancora. Et on aimerait rester un peu plus de temps avec vous, mais le temps est terminé, presque terminé, et on a juste une dernière question à propos. Vorremmo chiederti brevemente se puoi spiegarci il motivo della scelta musicale e sostanzialmente anche siamo molto curiosi di sapere a che punto è la lavorazione del tuo ultimo film, del tuo progetto che stai realizzando. Alors, une double question. La première, c'est pouvez-vous nous parler de la bande originale du film et du musicien d'une façon assez, excusez-moi, rapide. Et surtout, on voulait savoir, on a beaucoup d'intérêt à propos de l'élaboration de votre dernier projet. D'accord. Le film, dans ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est à la fois travailler de façon politique au sens large, c'est-à-dire prendre position par rapport à des politiques actuelles, mais en même temps comprendre les choses, les individus, etc. Donc c'est aussi travailler sur le politique. Et la musique vient d'un grand musicien qui s'appelle Diabolo, qui est un musicien français qui joue de l'harmonica et que j'ai rencontré avec le musicien de free jazz Archichette. Et alors, lui rimette l'attenzione sul fatto che lui fa dei film politici e proprio per questo lui ha utilizzato un musicista che tra l'altro è molto famoso in Francia e che usa l'accordion, la fisarmonica, che si chiama Diabolo, e un altro artista che fa free jazz. Et le dernier projet? Le dernier projet, c'est un projet aussi un peu en connexion avec les autres. Je suis allé très rapidement l'année dernière, je suis allé à Madrid en 2011, lorsque les événements Place Puerta del Sol ont démarré. Comme beaucoup de gens, j'étais extrêmement intéressé par ce qui s'est passé. Je me demandais si c'était la première révolution du 21e siècle en Occident. Et depuis, j'ai essayé d'y aller le maximum pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas et d'essayer d'en restituer certains aspects. Donc je suis en train de travailler sur ce film-là, qui est bientôt terminé. Ok, alors lui, questo film è sui fatti della Porta del Sol a Madrid, e lui quando è andato in Spagna ha pensato che poteva essere la prima rivoluzione del XXI secolo e praticamente sta appunto finendo il film su questo tema degli indignados. Sylvain, grazie veramente molto, è veramente un piacere per noi averti ospitato, ma ancora essersi aggiunti alla lista dei tuoi amici. In particolar modo vanno ringraziate Paola Cassano e Caterina Renzi, che con il progetto L'Eclat Italia danno la possibilità agli spettatori italiani di conoscere anche la tua filmografia. Grazie molto e a bientôt. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier, si j'ai 30 secondes, j'aimerais beaucoup remercier Paola Cassano, Caterina Renzi, Davide Oberto. J'aimerais aussi beaucoup remercier Cristina Piccino et Federico Rossin qui m'ont beaucoup défendu en Italie. Et je m'excuse auprès des autres personnes que j'ai oubliées. Va bene, lui ringrazia appunto queste persone alle quali non sono riuscita a scrivere i nomi, comunque... Le dico io, Cristina Piccino, Paola Cassano, Caterina Renzi, la lunga lista di amici che... Federico Rossini. In Italia. E lui che lo hanno difeso in Italia, quindi probabilmente ha avuto dei problemi. Sì, grazie tanto Sylvain, a bientôt e buona fortuna. Grazie mille. Merci beaucoup, monsieur. Ciao Sylvain. Merci beaucoup pour votre entretien. Merci. Ciao. Ciao. Au revoir. Allora, abbiamo ritrovato anche la sigla. Massimo, ricordiamo rapidamente l'appuntamento con Les Eclats al Cineclub Cinema Aquila il 22 al 24, dal lunedì 22 al mercoledì 24. 20:30, 22:30, grazie a te per la consueta disponibilità e anche per averti rubato un po' più del tempo che avevamo programmato. Grazie Federico e grazie a Paola per la traduzione. Grazie. Un abbraccio e a presto. Allora, Silvio Soldini, regista del Comandante La Cicogna, in uscita oggi, giovedì 18 ottobre. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Silvio. Adesso ci senti? Sì, benissimo, ecco. Forte e chiaro. Allora, in uscita oggi il Comandante La Cicogna, come lo descriveresti rapidamente per chi ci ascolta ed è interessato a vederlo? Non è facile per me descriverlo così dall'interno, diciamo, però mi sembra... una commedia che trasuda voglia di divertirci di noi che l'abbiamo scritta e poi girata e tutto quanto, lavorando anche con gli attori, con i personaggi creati insieme a loro, eccetera, ma che forse rispetto alle altre mie due commedie, Tulipani e Ragazza della Tempesta, un aggancio e una correale e con quello che sta accadendo a questa nazione in questi ultimi anni, più preciso, ecco. Ecco, proprio a questo proposito, riguardo alla corruzione della classe politica, ma anche di tutto un apparato avvocatizio che si presta a questi giochi. Ci sono due massime che sono parecchio esplicative. Una è con i nemici la legge va applicata, con gli amici va interpretata. E poi quando si dice con un buon avvocato siamo tutti onesti. È la prima, purtroppo è una citazione di Giolitti. Non mi aspettavo di trovare, eppure l'abbiamo trovato. No, ho detto che la prima l'hai notata, perché è una cosa proprio lei in un angolino a un certo punto di una scena, non sì, si è sì, descritta sì, anche sì. Piccolina, non volevamo esagerare, però invece c'è. Il che, insomma, mi sembrano, ecco, due massime che danno un quadro di una situazione oggi. Purtroppo sì. Purtroppo sì, e credo che questo film alla fine, nonostante, ma tutta la carica di fantasia e di libertà che ci si respira dentro, viene proprio da una voglia di uscire da questo pantano in cui siamo costretti a vivere, dove che veramente, al di là di tutto, le critiche, le cose che si possono dire, è una situazione che toglie energia, toglie creatività e toglie vita. Non è un luogo, quest'Italia di oggi, in cui uno si sveglia la mattina e ha voglia di fare, è un luogo in cui si sveglia la mattina e bisogna arrancare, insomma, perché poi se magari cominci la giornata leggendo un giornale va a finire malissimo. Senti, da una parte c'è anche un Valerio Mastandrea che fa lavori di idraulica ed Alba Rohrbacher, sì, che fa l'artista, ed entrambi insomma si ritrovano dall'altra parte della barricata. Questo semplifica un po' anche delle categorie oggi attaccate ed escluse dal ciclo produttivo, dalla società? No, credo che la categoria dell'idraulico non direi che proprio non è esclusa, anzi sono sempre molto ricercati gli idraulici. Io credo che questa, alla fine, così mi sono reso conto che il film racconta dei personaggi un pochino isolati, ognuno di loro, con delle loro solitudini, dei loro problemi rispetto alla lotta con la vita, sì, di ognuno, sì, di loro precisa. Quindi c'è Diana che vorrebbe essere un'artista, però non riesce ad esserlo fino in fondo, soprattutto non sa vendersi, non sa neanche farsi pagare, viene insomma alla fine gli mettono un po' tutti i piedi in testa, mm-hmm, però ha delle qualità molto particolari che hanno a che fare con uno stupore quasi bambino rispetto alle cose e rispetto ai dettagli del mondo che la gente non nota neanche. E dall'altro lato, insomma, l'altro protagonista, diciamo, è questo idraulico che invece ha una storia familiare molto diversa, nel senso che ha due figli che non hanno più la mamma, però che però va e viene e se la ritrova lì di notte e in qualche modo non riesce a distaccarsi da lei, no? Per rifarsi una vita normale. Però tutto questo volevamo raccontarlo, compreso poi il personaggio di Battistone, questa specie di moralizzatore urbano, e il personaggio, appunto, diciamo quello più negativo, che è quello dell'avvocato interpretato da Zingaretti, volevamo raccontarlo con una leggerezza e con una voglia di far ridere e anche commuovere a volte, però insomma diciamo che abbiamo preso in prestito il volo della cicogna sopra la storia del film e sopra a questo momento della storia d'Italia. Un'altra presenza al centro dell'attenzione è quella delle statue, con i battibecchi tra Garibaldi e Cazzaniga, che interpreta un po' l'imprenditore anticomunista e un Garibaldi, eroe del risorgimentale, amareggiato di quello che è diventato l'Italia dopo gli sforzi di chi ha combattuto, ha versato il sangue per questo paese. Sì, sì, più che amareggiato. Ma così è nata questa cosa di l'estate. In fondo siamo pieni di statue nelle nostre città, ma non le guardiamo mai, non sappiamo neanche bene chi sono, quindi l'idea è stata quella di dare un pochino per una volta la parola a loro, che ci guardano giù da decenni, a volte anche da secoli, che forse avevano ancora degli ideali, dei valori che adesso stanno scomparendo e dovrebbero essersi veramente, ma molto più che amareggiati, se veramente fossero lì a vederci. E Cazzaniga comunque finisce decapitato come statua. Sì, è lui, sì. Quando si fa troppo il gradassi finisce così. Si spera, però sta finendo un po' così, sì, questo, sì. Senza fare nomi, però prima o poi il marcio viene fuori, il problema è che non si crei altro marcio, se riusciamo a ripulire quello che sta uscendo e basta, e andare avanti, forse sarebbe la volta buona, la volta che le cicogne tornano a volare anche nel nostro cielo. Certo. Senti, ma rispetto a questa contrapposizione, non trovi però che ci siano anche delle responsabilità della cosiddetta gente comune, anche nei confronti della classe, certo, politica, che ci siamo ritrovati al governo? Ma figurati, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma beh, adesso il film non è che va a affrontare cosa, però certo, perché se no non ci sono le responsabilità, e certo, però, in effetti Garibaldi proprio all'inizio del film dice che questo popolo che si lascia abbindolare da ciarlatani assetati di potere, insomma. E questo è successo, ci siamo lasciati abbindolare. Senti Silvio, allora da oggi nelle sale in quante copie il comandante La Cicogna? Dunque dovrebbero essere 250 circa, forse qualcosa di più, ma insomma non so, non so di preciso. Io ti direi un in bocca al lupo e a risentirci presto. Perfetto, Greti. Ciao Silvio, a presto su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Bene, Silvio Soldini, regista del comandante La Cicogna, da oggi nelle sale. Andiamo avanti. Per comunicare con noi il numero di cellulare per gli SMS in diretta è 342-357-4357, per la posta elettronica l'indirizzo è visionari@ondarossa.info. Ed è con noi Antonio Bigini, coregista del documentario Formato Ridotto, Libere Riscritture del Cinema Amatoriale, presente al Via Emilia Doc Fest insieme ad altri 17 lavori, se non sbaglio sono 18 ora in Lizza. Antonio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuti, grazie, arrivederci. Allora, sì, pronto, buongiorno. Eccoci. Sì, eccomi qua. Eccoti. Allora, Formato Ridotto, Libere Riscritture del Cinema Amatoriale, di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di un film in 5 episodi, tutto a base di archivio, un archivio di cinema amatoriale che è quello di Unmovies, l'Archivio Nazionale del Cinema di Famiglia di Bologna, ed è un film che insomma in qualche modo nasce dall'incontro di 5 scrittori dell'area romagnola, che sono Ermanno Cavazzoni, Enrico Brizzi, Emilio Clementi, Wu Ming II e Ugo Porta, con le immagini contenute in questo archivio. Quindi in qualche modo il film è proprio il risultato di un incontro, di un esperimento, diciamo, di far incontrare alcuni scrittori con le immagini di questo archivio del cinema di famiglia. E che risultato ne è venuto fuori? Allora, diciamo, sono nati appunto 5 episodi molto diversi tra loro. Sì. Ogni scrittore in qualche modo ha individuato un proprio tema, un proprio filone all'interno di questo archivio. Ad esempio, Ermanno Cavazzoni si è in qualche modo concentrato sulla Riviera Romagnola e ha in qualche modo scritto una delle sue divagazioni un po' stravaganti sul rapporto tra l'uomo e la spiaggia, il mare. E ad esempio invece Enrico Brizzi ha preferito concentrarsi su un luogo specifico come è la pietra di Bismantova, che è un promontorio dalle parti di Reggio Emilia, e ha scritto invece un racconto di fiction, una storia d'amore ambientata in questo luogo, e così al modo diverso, diciamo, Emilio Clementi ha raccontato la storia, un episodio legato a Bologna e alla tifoseria del Bologna Calcio negli anni 50. E Cornia, a modo suo, invece, ha fatto una delle sue divagazioni sulle strade dell'Emilia Romagna, come gli sono tipiche in qualche modo, insomma, cose molto, molto, insomma, svagate, come è tipico proprio del suo stile. E infine Wu Ming, diversamente dagli altri, ha scelto un taglio più saggistico e ha raccontato una festa dell'unità degli anni 50 a Bologna. Sì. Questo più o meno è il quadro del film. 5 episodi da 10 minuti l'uno, un film da circa appunto 50-52 minuti, che appunto potete vedere al Via Emilia Doc Fest. Senti, come a tuo... cioè, rispetto anche al progetto iniziale, quest'unione tra spezzoni di filmati amatoriali e assemblati per le penne di alcuni scrittori, che operazione voleva essere? E poi, secondo te, il risultato, come si potrebbe leggere? Allora, va bene, le intenzioni era, diciamo, un primo esperimento per valorizzare queste immagini con una produzione, nel senso che questo archivio esiste da 10 anni, proprio quest'anno compie il suo 10° anno, e oltre a, appunto, a raccogliere le immagini, in qualche modo uno degli obiettivi è anche valorizzarle. E questa di formato ridotto è una delle prime produzioni, diciamo, di un certo rilievo che si sono realizzate, ed è una produzione in qualche modo sperimentale, non esistono, diciamo, progetti simili in cui in qualche modo si prendono archivi e in qualche modo si mettono alla prova, diciamo, di una sensibilità esterna a questi archivi. Quindi l'intenzione era molto aperta, diciamo, non avevamo un risultato chiaro su quello che avremmo, un'idea chiara sul risultato che avremmo ottenuto. L'idea, ecco, di una struttura aperta, di un progetto aperto era quella iniziale, e in effetti poi abbiamo in qualche modo assecondato le sensibilità di vari scrittori che, appunto, ci hanno in qualche modo portato episodi molto diversi tra loro, però accomunati da un filo comune, che è quello del, diciamo, dell'immaginario emiliano-romagnolo. In qualche modo tutti gli episodi raccontano un aspetto della regione Emilia-Romagna. E c'è una, secondo te, una continuità a proposito di questo spirito tra lo ieri e l'oggi? In che senso continuità? Una continuità, appunto, di spirito, dello spirito romagnolo di cui parlavi prima. Ma sicuramente credo che qui, insomma, in Emilia Romagna ci sia una forte identità regionale, diciamo, c'è una cultura molto, molto spiccata che si tramanda, diciamo, soprattutto una cultura dello scrivere, e questi scrittori hanno testimoniato con questa opera, la loro opera, una forte consapevolezza anche dei luoghi, delle tradizioni, delle storie che in qualche modo si conservano ancora in questo territorio. E ecco, in questo senso, diciamo che c'è una forte continuità col passato. Bene, allora ricordiamo che formato ridotto, libere riscritture del cinema amatoriale, è visibile online sul Via Emilia DocFest, si può vedere, si può votare per ancora, credo, un paio di settimane, se non sbaglio, vero Antonio? Sì, credo di sì, all'incirca. Bene, io ti ringrazio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, crepi lupo, a presto. Ciao Antonio. Antonio Bigini, coregista del documentario Formato Ridotto, libere riscritture del cinema amatoriale. Ora dovremmo avere una sorpresa. Aniello Arena, protagonista del film Reality di Matteo Garrone. Aniello, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto non so se la conosci, ma insomma è una delle storiche radio libere di questo paese, nata nel 1977. Sì, ho sentito parlare, diciamo. Allora, intanto ti chiedo, rispetto al film, come sta andando e come l'hai vissuto il film Reality di Matteo? No, l'ho vissuto con serenità, nel senso che sto avendo dei riconoscimenti, che le persone mi riconoscono per strada, quindi mi sento abbastanza bene dentro, quindi sono soddisfazione che comunque non capitano sempre a chiunque, e quindi abbastanza bene. Poi il film, io sto sentendo le persone che mi conoscono, comunque conoscenti o in giro per strada, che tutti restano contenti dopo aver visto il film, e quindi penso che stia andando bene. Con te volevo parlare di un'esperienza, sì, importante, quella della Compagnia di Volterra, insomma un'esperienza teatrale che ha fatto un po' la storia e che ha avuto e continua ad avere un ruolo piuttosto importante, ecco, ce ne parli un po', Aniello? Sì, come no, io sono arrivato a Volterra nel 1999 a Castel di Volterra, ho sentito parlare della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, mi sono avvicinato perché, così, per curiosità, pensavo che erano i soliti teatri napoletani, ho visto che invece si trattava di tutta un'altra cosa, e sta cosa mi aveva colpito molto, sì, e quindi, diciamo, non mi sono più fermato da lì in poi, perché facciamo un dei spettacoli, un tipo di teatro più sulla ricerca, sulla persona. È un teatro sperimentale che, diciamo, stravolgiamo i copioni, o meglio, Armando Punzo stravolge i copioni, no? Sì. Fa uscire la persona che è dentro, anche se noi parliamo attraverso gli autori, i testi teatrali, però siamo sempre noi che diamo dell'intonazione, dell'anima, no? Se vogliamo dire. Sì. Senti, come funziona materialmente il lavoro della compagnia? Da quante persone è formato il gruppo? E poi quanti giorni a settimana vi vedete e lavorate? No, praticamente Armando Punzi viene ogni giorno. Bene. Lui entra la mattina alle 9, se ne esce all'una all'orario di pranzo, rientra alle 3 fino alle 7 di sera. Noi della compagnia siamo tra i 40 e 50 persone che facciamo parte. Lui viene con dei pensieri, con delle idee, noi cerchiamo di dare forma, no, a questi pensieri, queste sue idee, diciamo, lui viene con delle basi e poi si arriva da tutt'altra parte, diciamo, si parte da un testo e si può arrivare da un'altra parte, sì. Si parte da un'altra cosa e si arriva da un'altra parte, poi io penso che nella vita che è così, man mano si parte da un progetto e ci si può arrivare, si scoprono le cose strada facendo, no? Agnello, una cosa, anche attraverso la tua esperienza, secondo te l'arte e la cultura possono rappresentare uno strumento di liberazione? Assolutamente sì, perché il teatro è un luogo di libertà, perché a teatro tu nel modo giusto puoi fare qualsiasi cosa in una scena, sempre nel modo giusto, ribadisco, e mentre nella vita quotidiana non si possono fare, ci sono tante forme di prigionia, non esiste solo la prigione materiale, ma ci sono tante forme nella quotidianità che non te lo permettono, sì. Quindi a teatro ti dà questa possibilità, e poi sì, l'arte e la cultura apre la mente, fa capire meglio proprio la cosa, ti fa vedere la vita sotto un'altra prospettiva. Assolutamente sì, la risposta. Agnello, i vostri prossimi impegni, dove sarete in scena? Noi in scena dovremmo essere a Roma con uno spettacolo che abbiamo fatto quest'anno. Mettiamo il condizionale, che io ho imparato nella vita, non do mai niente per scontato. Quindi dovremmo essere a Roma per uno spettacolo nostro teatrale che facciamo all'interno del carcere e poi viene portato fuori. Allora ci terremo. Non deve morire, intitolato. Ci terremo informati, insomma, magari ci risentiremo. Un abbraccio e un in bocca al lupo per tutto. Ok, grazie e che crepi il lupo e un buongiorno a tutti. Ciao Agnello. Arrivederci. Arrivederci. Agnello Arena, protagonista del film Reality di Matteo Garrone. È con noi Silvia Poeta Paccati, regista del documentario San Martino, anche questo presente al Festival Online Via Emilia Doc Fest. Silvia, ci sei? Eccomi. Benvenuta. Ciao, a Visionari su Radio Onda Rossa. Come va? Stai girando, vero? Stai facendo i sopralluoghi, a quanto sì. Mi dicevi. Sì, sto facendo un piccolo giro per dei sopralluoghi vicino al Delta del Po, ma non è detto che ne verrà fuori qualcosa ancora. Senti, invece, San Martino, cos'è San Martino? San Martino è un piccolo film che si è realizzato grazie a un'iniziativa del distretto culturale di Valle Camonica, che ha deciso di fare svariate iniziative legate al territorio e per questo secondo me molto, molto importanti. E tutto è nato per un bando sul tema della casa. E da lì io ho portato alcune idee che mi portavo dietro da un po' di tempo e ho cercato di diciamo localizzarle su quel territorio. In particolare si può dire che è una ricerca sul patrimonio immateriale che è stato dal 2003 riconosciuto dall'UNESCO e quindi protetto come tutti gli altri patrimoni immateriali. E quindi si situa un po' come una ricerca riguardo quello che è quel passato di leggende, tradizioni orali, il dialetto, che per molto tempo non sono state considerate, ma anzi erano state un po' lasciate da parte negli anni, diciamo, 50-60, con il boom economico e l'importanza dell'italiano anche a livello istituzionale, e quindi tutto questo bagaglio di saperi tradizionali erano stati un po' accantonati, e adesso invece finalmente vengono un po' ripresi. E San Martino in realtà è un film un po' complicato, nel senso che ha molti sottotesti, e sta un po' allo spettatore cercare di cogliere i sottotesti che a lui più forse si confanno. In breve, è un po' difficile fare una trama di questo film. Direi. Però ecco, rispetto al... hai detto che rispondeva un po' a delle idee che avevi in mente, anche se il luogo non lo avevi ben definito. E quindi com'è stato, secondo questa prospettiva che avevi, l'incontro con un luogo, con questo luogo? Beh, per me è stato molto interessante, perché ho proprio deciso di trasferirmi lì per i 2 mesi che avevo a disposizione per fare questo lavoro. Quindi mi sono proprio, ho preso la mia vita e l'ho trasferita lì. Ti sei immersa esatto. Totalmente, insomma. Esatto, e ho cercato di vivere proprio in valle, poi ecco, mi sono anche molto spostata, infatti nel film una parte molto importante è quella legata al movimento e anche a come ci muoviamo oggi nel territorio, quindi c'è tutta una parte legata anche ai mezzi di trasporto, banalmente diciamo così, che sono però spunto per una riflessione su come l'uomo si è mosso nel paesaggio, nel territorio, anche fin dalla preistoria, perché una cosa molto interessante di quel territorio è che era importante fin dai tempi della preistoria, infatti è un sito dove si possono trovare tuttora molte incisioni rupestri, anzi è una delle zone più ricche di incisioni rupestri, e da lì insomma è partito un po' questa ricerca che vorrebbe tracciare anche un filo rispetto a quello che era in tempi molto remoti il rapporto dell'uomo col territorio fino ad arrivare adesso. E poi su questo si scrive anche tutto un discorso su come decidere che cosa conservare e che cosa abbandonare di questo passato. Sì. Poi un altro sottotesto interessante è quello che si è sviluppato attraverso un incontro che per me è stato molto importante con un geografo, sì, che si chiama Franco Micheli, che è una figura estremamente interessante, perché in un periodo come questo, in cui ormai quasi tutte le persone dispongono anche sul proprio cellulare di mappe satellitari, ecco, lui ha deciso invece di approcciare il territorio completamente privo di mappe, di bussole e appunto di questi strumenti che sono, per esempio, il GPS, e lui fa queste traversate in particolare in paesi del nord senza l'utilizzo di questo, quindi davvero come faceva l'uomo un tempo. Sì. E su questo si iscrive anche un discorso che secondo me potrebbe essere anche politico in un certo senso, che è quello di come spesso oggi, anche nel campo dell'avventura, cioè del voler andare in zone remote, spesso vengono inseriti gli sponsor proprio di questo tipo di strumentazioni, per dare un'idea di come anche quando si va in luoghi così remoti è importante essere sempre connessi al mondo. E questo secondo me è un punto abbastanza critico, su cui forse bisognerebbe ragionare un po' di più e non seguire pedissequamente questa tecnologia che ci permette di essere sempre e ovunque connessi, ma che cosa perdiamo però forse essendo continuamente così connessi? Cioè, da un lato è interessante, però deve essere una scelta, sì, non una cosa subita in un certo senso. Certo. Ecco, proprio a questo proposito, Silvia, visto che comunque sì, hai vissuto anche questo periodo di vita altra rispetto a quella, sì, a cui eri abituata, tu, sì, se vuoi in estrema sintesi, per sommi capi, cosa abbandoneresti e invece cosa rivaluteresti di una dimensione del genere? La dimensione, intendi quella montana, quella che hai scoperto, o altra rispetto alla città? quella che hai vissuto tu o più in generale comunque. Ok, beh, per me sicuramente quella era una dimensione alta rispetto alla vita in città, che è quella che conduco ormai da un po' di anni a questa parte, e per me in particolare, in questo caso parlo a livello molto personale, era un po' il recupero di un po' di quello che era il vivere contadino, no? Quindi con dei ritmi diversi, con una vicinanza anche alla natura e un rispetto per i ritmi naturali che sono molto diversi, che sono molto più lenti, che sono legati alle stagioni, che sono legati a una serie di proprio di necessità che sono diverse, che non sono quelle di essere veloci, di essere produttivi a tutti i costi, di essere sempre reperibili, sempre pronti, ma anche questa idea di saper attendere, di saper pazientare, del fatto che le cose abbiano un tempo che è loro e che va anche aspettato un po', no? Sì. Bene Silvia, allora ripetiamo il tuo lavoro, San Martino è online al Via Emilia Doc Fest, tu sei Silvia Poeta Paccati, si può vedere e si può anche votare volendo. Io ti auguro un in bocca al lupo e mi piacerebbe risentirti presto per qualche nuovo progetto. Grazie, mi farebbe piacere. Il film dura 69 minuti, quindi non è una passeggiata. I ritmi lenti della natura. Sì, esatto, bisogna dedicarvi, sì. Bene, giustamente. Silvia, un abbraccio e a presto. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Allora, di nuovo i nostri contatti per gli SMS in diretta 342-3574-357, per inviarci posta elettronica a visionari@ondarossa.info. E restiamo nei paraggi del Via Emilia Doc Fest perché abbiamo Francesco Don Giovanni, regista del documentario Densamente Spopolata e la Felicità. Francesco, ben trovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve a tutti. Allora, già il titolo mi piace. Ah, grazie. Raccontaci un po' di questa storia. Allora, il film nasce da un progetto finanziato dalla Regione Puglia, per cui è nata proprio una cooperativa di produzione, un piccolo gruppo di amici fondamentalmente, che ha sviluppato questo progetto proprio in fase produttiva, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista tecnico, e in tutti i suoi aspetti. Il film in sé è nato dal desiderio un po' di raccontare un pezzo del nostro territorio. Stiamo parlando della zona, della provincia barese, però della parte dell'entroterra, quella un po' meno conosciuta se vogliamo, sì. Visto che appunto di solito si guarda Bari più come una città sul mare, appunto, no? Invece noi siamo nella zona dell'entroterra, in quello che appunto è anche un parco nazionale, il parco dell'Alta Murgia. Mm-hmm. E dentro questo paesaggio, che è uno dei protagonisti assolutamente del documentario, abbiamo raccontato la storia di questo anziano pastore che da moltissimi anni, praticamente per tutta la sua vita, che è ormai arrivata ad un'età insomma ragguardevole, ha vissuto appunto spostandosi in questo territorio con il suo numerosissimo gregge di pecore, insomma. Mm-hmm. Il film però è ha un taglio un po' particolare, nel senso che non abbiamo voluto realizzare il classico documentario così con i dialoghi, le interviste, ma semplicemente abbiamo deciso di seguire per moltissimo tempo, devo dire, appunto la vita, le giornate di questo pastore, e di raccontare la sua vita, le sue giornate, senza alcun intervento da parte nostra. Ecco, noi fondamentalmente abbiamo girato con una troupe di due persone, io e l'operatore, ci siamo un po' nascosti nel suo ambiente, ne abbiamo colto i diversi momenti della giornata, e appunto chi guarda il film vede alla fine il racconto di una giornata dall'alba al tramonto di quest'uomo, appunto con questa tecnica di nascondimento della telecamera e anche della regia, insomma. motivo per cui il film è senza dialoghi, appunto, perché il pastore vive tutta la sua giornata in perfetta solitudine, se non appunto nelle forme di interazione che lui ha con gli animali, in particolare con i cani, che hanno un ruolo importante nel lavoro del pastore. E quindi appunto è un film muto fondamentalmente, anche se in realtà è ricchissimo dei tanti suoni della natura che è protagonista insieme al pastore del film, insomma. Ecco, questo universo di vita nei campi e sì, per di più in un parco naturale, ecco, sì, com'è stato ai vostri occhi di osservatori esterni? Ma intanto devo precisare che insomma non siamo proprio esterni, ecco, è un po', abbiamo raccontato un po' la nostra terra che conosciamo abbastanza bene. Sì. In realtà quello che è di innovativo, quello che abbiamo visto, ecco, è stato soprattutto nella fase di ricerca, perché noi avevamo in testa questa storia, ma non sapevamo esattamente chi riprendere, ecco, chi cercare. E in questa fase di ricerca abbiamo scoperto fondamentalmente che il mondo agricolo, e in particolare nella nostra zona il mondo della pastorizia, è in fortissima crisi, è davvero agli sgoccioli, se vogliamo. Infatti mi è capitato più volte di dire presentando il film che quello che si vede è probabilmente qualcosa che si vede per l'ultima volta, perché è proprio un mondo che sta sparendo, appunto, al di là di questi isolati uomini che sono rimasti a condurre questa vita, perché fondamentalmente è l'unica vita che sanno fare e che vogliono fare, che potrebbero fare. Abbiamo trovato intorno al mondo della pastorizia soprattutto diciamo così miseria e tristezza e perdita di un mondo culturale, ecco. Anche basti dire che la stragrande maggioranza dei giovani che ancora conducono questa vita sono immigrati, che lo fanno, appunto, come puoi immaginare, per sopravvivere. Certo. E senza alcuna passione, non è il loro lavoro, insomma, stanno lì per caso, stanno lì perché non possono fare altro. Invece quello che raccontiamo noi è proprio, come dire, la condensazione di secoli di storia di questi territori, che purtroppo sembrano essere un po' al declino, sembrano essere al tramonto, insomma. Secondo te, anche in base a queste cose che ci stavi dicendo, ci sono delle prospettive per un recupero di questi mestieri, di queste tradizioni, o è comunque un mondo destinato a scomparire? Ripeto, quello che ho visto io in questa fase di ricerca è che sembrerebbe essere un mondo che va sparendo, anche se devo dire, nel caso specifico nostro, per fortuna, diciamo, tutta la parte relativa al paesaggio e alla tutela del territorio si regge, insomma. Magari si potrà fare anche di più, ancora di più, e devo dire che insomma negli ultimi anni si sono fatte diverse cose, però quantomeno dal punto di vista della tutela del territorio qualcosa si è iniziato a muovere. Quello che manca, appunto, è poi diciamo la carne viva del paesaggio, ecco. Infatti noi volevamo raccontare un po' la carne del paesaggio, posso dire, cioè volevamo non far vedere un paesaggio bello da vedere, che poi sia incidentalmente anche bello, suggestivo, particolare, ci sta, ma a noi ci interessava capire quali forme di interazione si sono condensate nei secoli tra l'uomo e questi paesaggi. Certo, sentivo l'intervista della regista precedente, insomma, anche lei parlava di come dire, di come è possibile immaginare che nella realtà di oggi queste realtà altre e ormai, diciamo così, al tramonto possano trovare delle nuove forme di nell'essere ripensati e nell'essere riproposti. Ovviamente la vita del pastore che noi abbiamo seguito forse non è più replicabile, però è certo, è auspicabile che nuove forme di lavoro che ritornino alla terra e che contemporaneamente non ritornino alla terra soltanto per sfruttarla, per costruirci su brutture immonde, o per appunto immaginare l'agricoltura solo come un lavoro diciamo, per cui la terra è vista solo come elemento da sfruttare, no? Certo, queste nuove forme sono auspicabili, sono ipotizzabili, onestamente non saprei dirti qual è lo stato dell'arte, insomma, certo. Credo che nuove forme di lavoro, anche con l'aiuto delle tecnologie, quando le tecnologie appunto sono intelligenti e non inutili, stupide o addirittura dannose, possano essere ipotizzate. Francesco, che senso hai voluto dare al titolo del documentario? Allora, il titolo è fondamentalmente l'unica intromissione registica, autoriale, perché appunto, come vi dicevo, per chi vedrà il film, per chi l'ha già visto, noi davvero spariamo nel... scompariamo, anzi meglio, nella scena del film. L'unico intervento è appunto questo del titolo, che un po' insomma è venuto dopo, quando il lavoro era già iniziato, perché un giorno appunto ascoltavo questa canzone di CSI, che è Bolorma, da cui è tratto questa frase che è presente nel ritornello, e immediatamente mi è venuto di accostare questa frase al lavoro che stiamo facendo. Per di più, la canzone dei CSI era una canzone dedicata poi alla Mongolia, al loro viaggio in Mongolia, e devo dire, insomma, i paesaggi della Murgia non sono certo la Mongolia, però hanno questa caratteristica di spazi molto ampi, molto aperti e poco popolati. E quindi il collegamento è stato immediato, e effettivamente è, dicevo, l'unico intervento autoriale, nel senso che è l'unico intervento, un po', se vuoi, anche a gamba tesa, che noi facciamo, nel senso che noi abbiamo proprio respirato in questo lavoro questa sensazione di qualcosa che è avvicinabile alla felicità. Comunque abbiamo visto nel pastore una forma di vita in simbiosi con l'ambiente, che forse noi abbiamo sentito essere qualcosa che si avvicinava alla felicità. Se vuoi, c'è anche, in un film che apparentemente sembra non interessarsi di questo, ma c'è anche da parte nostra un certo giudizio, comunque una certa visione del mondo, anche politica se vuoi, rispetto alle brutture, alle strutture della vita contemporanea, della vita urbana, dell'incapacità delle nostre società di ripensarsi dal punto di vista del consumo del territorio, dell'idea non di convivere con un territorio, ma sempre di violentarlo, di sfruttarlo, di deturparlo. Certo. E quindi da parte nostra questo verso del brano dei CSI serviva un po' anche a lasciare così una traccia anche di riflessione politica, se vuoi, di riflessione legata all'idea della decrescita. Certo, nel film non c'è tutto questo, nel film c'è soltanto un'esperienza, ecco, perché poi il film ha questo di... Però può essere di stimolo, insomma. Sì, io spero che sia di stimolo alla riflessione, insomma. Dicevo, il film, appunto, non essendo dialogato, non avendo una voce off che ci dice una serie di cose, il film è soprattutto un'esperienza sensoriale, se vuoi, sui tempi e sui colori. Mancano gli odori, perché il cinema non li ha ancora inventati, no? So, tolto quello c'è tutto il resto. Bene. E come dire, la nostra speranza è che questo piccolo viaggio sensoriale possa risvegliare non solo come dire, qualcosa di intimo che è di tutti gli uomini, cioè appunto il rapporto con la natura, ma anche un'idea di un nuovo modo, ecco, di immaginarci le nostre vite, anche le nostre città, i nostri paesi, il nostro modo di relazionarci con le risorse e con l'ambiente in cui viviamo. Bene, Francesco, allora ricordiamolo: Densamente spopolata è la felicità di Francesco Don Giovanni, online al Via Emilia Doc Fest, dove si può vedere e votare. A risentirci presto a questo punto. Grazie, speriamo. Ciao Francesco. Grazie mille. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Alessandro Penta, ben ritrovato a Visionari, ci sei? Sì, ci sono, ciao a tutti. Allora, noi ci eravamo già sentiti per un tuo precedente lavoro, giusto? Sì, con Via Ippocrate 45. Esatto. Che era il mio scorso documentario. Allora, qui rimaniamo sul Via Emilia Doc Fest, perché qui sì. al festival presente il tuo I pesci ci guardano. Dici sì. Un po' di questo lavoro. Ma è un lavoro che ho girato a Catania qualche anno fa. Ho tenuto le immagini un po' nel cassetto e le ho montate solo quest'anno. E come spesso accade, quando si vanno a riguardare le immagini si rimane sempre un po' sorpresi, perché mi sono reso conto di aver filmato proprio un piccolo mondo legato alla pesca, e quindi a partire dal peschereccio sul quale i pescatori guardano il Grande Fratello, fino ad arrivare al mercato del pesce di Catania, che è un mercato storico e molto bello, dove non ci sono pesci vendoli, ma proprio sono i pescatori a vendere direttamente il pescato. E quindi ho trovato una realtà particolare, antica, ma legata anche alla modernità, perché appunto i pescatori sul peschereccio al largo guardavano il Grande Fratello, ecco. Senti, allora, in diversi lavori che abbiamo trattato negli ultimi tempi si poneva il problema della pesca come problema di pesca intensiva, soprattutto sì. Da altre aree del mondo, e che comunque stanno arrivando anche nel Mediterraneo, e della scomparsa, bene o male, di rischio scomparsa per alcune specie di pesci. E anche se vuoi, un altro tema è quello, per esempio, dei tipi di pesce che portiamo a tavola. Prima erano molti di più, adesso è una scelta molto più ristretta, indotta dal mercato. Insomma, questi sono temi che in qualche modo hai avuto modo di incontrare, di affrontare? Io sì, li ho incontrati. Poi la mia scelta nel racconto è stata quella di non trattarli in modo diretto. Sì, quindi non ho fatto interviste, non ho usato numeri o statistiche. Credo che dal mio lavoro si riesca a intuire quella che è la difficoltà sia della natura, e quindi di un pescato e di appunto una natura che fa fatica a sostenere certi metodi di pesca, ma anche la difficoltà dell'uomo e del mestiere che fa fatica a tenere il passo con i tempi moderni e con appunto un commercio globale. Mm-hmm. E quindi quello che mi piace sottolineare è che poi non si capisce chi si estingue, chi va scomparendo, cioè un po' sono i pesci, ma un po' sono anche gli uomini, è un certo tipo di mestiere, di lavoro, di cultura. Ecco, proprio in questo senso, tra chi rischia di scomparire tra la vecchia pesca e i pesci, ecco, i pesci ci guardano e cosa pensano? I pesci ci guardano e vedono un uomo che fa fatica, che perde i riferimenti culturali, perché appunto, come dicevo, i pescatori sul peschereccio guardano il Grande Fratello, ma anche gli spot commerciali per la cellulite. E i pesci ci guardano mentre gli uomini appunto organizzano il mercato, si alzano all'alba e non riescono a tornare a casa, cioè praticamente vivono in mare. Mm-hmm. E quindi il pescatore, in questo lavoro non ho fatto interviste, ma quelli che ci sono più che altro sfoghi di persone che ho incontrato. C'è un pescatore che mi dice: io i miei figli non li ho neanche portati al mare, cioè non gli ho fatto vedere il lavoro che faccio. Mm-hmm. E quindi questa è l'osservazione che secondo me è stata più interessante, ecco. Sì, sì. Ecco, da cosa stanno per essere soppiantate queste realtà, questo vecchio stile di pesca? Queste realtà vengono soppiantate da un altro tipo di, un altro modo di mangiare, di vendere e di andare a, proprio andando alla radice, di pescare, quindi è il commercio che è cambiato. Infatti l'ultima intervista, l'ultimo personaggio che è presente nel documentario è un ragazzino, si chiama Totò, è proprio un personaggio puro, indifeso, che è stato gettato al mercato giovanissimo, e quando gli chiedo se ha dei fratelli, che lavoro fanno, lui mi dice sì, ho un fratello solo e lavoro al supermercato. E quindi insomma i supermercati avanzano e quindi nel bene e nel male, certo. E quindi il fratello di Totò, un po', forse un po' più fortunato per certo verso, forse un po' più sfortunato, forse si alza più tardi e va al supermercato a vendere delle cose che però sono avvolte nella plastica. Sì. Ecco, proprio a questo proposito, qual è l'atteggiamento dei più giovani rispetto a questa realtà? Per quello che hai avuto modo di vedere, Come? Per quello che hai avuto modo di vedere tu, insomma. Ma quello che ho visto io è che i più giovani che vivono quel mondo sono, non hanno scelta, e quindi vengono un po' per tradizione di famiglie in cui si pesca, un po' perché magari sono giovani e magari non hanno voglia di studiare, un po' indisciplinati, allora vanno a fare il lavoro che nessuno più vuole fare. E per quello che ho potuto vedere io non c'è una grande attenzione. Infatti la cosa che si diceva al mercato è che nel giro di qualche anno non ci saranno più catenesi a gestire il mercato, ma o andare a pescare, ma ci saranno stranieri. E già una grossa parte di un mercato lì vicino era in mano a cinesi. Beh, questo è il quadro. Quindi la carne al fuoco è tanta. Io ho fatto un lavoro di 20 minuti che veramente non scioglie nessuno i temi, ma credo che possa solo farne intuire l'entità. Ecco. Certo. Bene Alessandro, allora ricordiamo anche il tuo lavoro, I pesci ci guardano, online sul Via Emilia Dog Fest, si può vedere, si può votare, di Alessandro Penta. Un abbraccio e alla prossima, visto che già ci alla siamo prossima. Sentiti. Ciao Alessandro. Ciao, grazie mille, a presto. Allora, Piero Cannizzaro è tornato con noi per questa volta. Il suo viaggio nella musica etnica in Italia ha raggiunto il Veneto. Piero, intanto ben ritrovato. Grazie a voi, ciao a tutti. Allora, due versioni questa del Veneto. Una è andata in onda stamane su Rai Scuola e si trattava di Calicanto. Allora, sì. Raccontaci un po' di questa tappa veneta della tua musica etnica. Beh, per esempio venivo dal Salento negli anni passati, recentemente presentato con voi. L'anno scorso ho fatto un po' di innovazione, una musica grocca che era un viaggio tra Salento, Sardegna e Piemonte, vale a dire Cavallo, canzoniere grecanico salentino, Tenor Sbitti, Nur, insomma il gruppo di occitani in Piemonte, e Ludalfine, insomma, ecco, Simone Bottoso, insomma tanti ottimi musicisti in questo percorso. Dopodiché, appunto, il materiale è vivo in Italia, ho deciso di continuare in questo viaggio che lo sto facendo, queste proposte che sto facendo, che insomma vengono accolte in questo caso da Rai, in particolare Rai Storia, Rai Education, io farne cioè la messa in onda viene fatta con loro e ho deciso di, appunto di fare il Veneto, in realtà anche la Sicilia. Per adesso ho iniziato, cioè ho realizzato il Veneto e parte della Sicilia, ma non ancora concluso. E niente, in Veneto sono andato a trovare due dei protagonisti, dei, diciamo, del musicisti e gruppi che secondo me ormai da 30 anni hanno seguito il percorso etnico, che sono i Calicanto, che è un gruppo magari a molti non dico nulla, ma invece nel mondo etnico sono molto conosciuto. Roberto Tombelli è una persona che è un organettista, che ha lavorato con Amore Paragna. Piero, ti sento un po' male, ti sento un po' male. La ricezione. Mi senti adesso? Adesso meglio. Allora, se ci ripeti il nome del protagonista dell'avventura di Calicanto. Roberto Tombelli, un ricercatore che vive a Padova, esattamente per i loro hanno fatto un lavoro sulla tradizione musicale veneta, in particolare dei Monti Augusti, che di Venezia hanno fatto veramente quest'anno. Io ho registrato nel mio documentario il concerto da Padova del trentennale della loro attività, quindi loro hanno suonato anche con Borgio Sparagna, con Vertesi, insomma con tante persone, sono molto interfacciati con il mondo etnico, insomma, e quindi ripeto, chiaro che la musica del mondo etnico è molto conosciuta in certi ambienti, ma molto, magari in altri ambiti invece un po' meno, insomma è un po' così, insomma. E poi il gruppo invece era un cantautore che ha segnato invece la musica politica degli anni 70, fine anni 60, che è Gualtiero Bertelli. Gualtiero Bertelli, per chi non lo conoscesse, forse però conoscono la sua canzone più conosciuta, che è Nina, se ti ricordi, che ha inciso anche Francesco De Gregori e Giovanna Marini nell'ultimo CD, quello di De Gregori sulla canzone politica, ecco. Quindi, sì. Allora, hai fatto due esempi di comunque abbastanza connotati nel tempo. Come realtà etnica, di musica etnica, il Veneto continua ad avere una sua proposta culturale? C'è una vivacità in questo senso? Beh, io direi di sì. Diciamo che ultimamente la musica, diciamo, del sud è quella che naturalmente il Salento la fa da padrona per tanti motivi, come immagine, come anche qualità dei musicisti, però come anche in Piemonte ho scoperto che ci sono degli ottimi gruppi, anche nel Veneto sì ci sono altri gruppi, questi naturalmente io non è che faccio l'elenco di tutti i gruppi, certo. Ne scelgo alcuni che sono un po' esemplificativi, ma poi generalmente queste persone che io scelgo sono persone che hanno molte collaborazioni con altre persone, altri gruppi, si sciolgono, si riprendono, quindi insomma esprimono proprio una musica che è un po' generale di quella regione, insomma, ecco. Però ecco, un'altra cosa che forse mi sono gruppi che fanno continuamente concerti, magari più limitati nel caso del, per esempio, il Calicanto adesso si stanno occupando di riportare in luce alcuni canti della tradizione della montagna, per esempio dalle parti di Cortina d'Ampezzo, dalle parti, hanno trovato addirittura una tarantella che si cantava sulle Dolomiti, perché c'è tutto il discorso dell'immigrazione, insomma, tra questi gruppi, dietro questa proposta c'è molta storia, ma soprattutto c'è un grande seguito, per esempio di Padova loro fanno molti concerti, dentro di Padova, diciamo nel Triveneto, ecco. Senti, nei casi che hai voluto prendere sotto esame, anche in questi casi c'è un utilizzo di strumenti anche di altre provenienze e anche melodie e sonorità di altri luoghi? Sì, assolutamente. Sono persone che utilizzano strumenti, come dire, appunto, che si ferma da museo, una musica non avrebbero sopravvissuto 30 anni, non sono gruppi folcloristici che si fermano, ma si facciano con la musica jazz, anche con altri strumenti, non so, la zampogna, il clarinetto, poi un'altra forma per esempio di batteria che si usa soprattutto anche addirittura in Sud America, loro non usano la batteria ma usano delle percussioni che sono soprattutto sudamericane, insomma. Naturalmente c'è, per esempio, nel caso del Pericanto, Roberto Tombesi che tiene diciamo, concedimi questo termine, la barra dritta su l'attenzione comunque su un certo tipo di tradizione, di provenienza, però poi viene contaminata da tante influenze. Un po' mi viene da pensare come ha fatto Steve Copeland con la musica della Taranta, insomma, quanto di più lontano, ma anche quanto di più in realtà vicino come curiosità, ecco. Salento e la Sardegna e il Piemonte, che erano forse le regioni, e metto il Salento in testa, le regioni di cui magari parla di più, però in realtà la ricerca è molto ampia, insomma. Il problema è che sì, non è facile comunque in questo momento, per la situazione che sappiamo, realizzare questo tipo di ricerche, perché comunque ormai, insomma, è sempre più difficile, insomma, viviamo tutti nella stessa condizione, sia i gruppi, i musicisti, che i dei concerti, che c'è anche le radio, insomma, tutti abbiamo sempre visto. Questo è un peccato, perché in realtà quando vado in giro, ma non solo io, tutti scopriamo che ci sono così terreni fertili, vivi, persone che seguono e così è tutto. Questo è un peccato. Quello che piace sempre una volta cercare. Mi viene da pensare, cercare chi ricerca, ecco, chi non sta fermo, insomma, questi gruppi, anche Gualtiero Butelli, che ripeto è stato conosciuto molto perché lui era tra i fondatori del Canzoniere Veneto, ai tempi al fine degli anni 60, legato al periodo del 68-70, quindi anche con col canzoniere poi di Giovanna Marini, Canzoniere Italiano, Liberovici, Iran della Mea, tutti i gruppi qui, e poi però ognuno ha preso altre strade, ma sempre continuando un po' il solco della loro tradizione. Gualtiero Bertelli continua a incidere dischi, porta in giro uno spettacolo con Antonio Stella, che è il giornalista del scritto sulla casta, insomma, purtroppo quello che succede è che oramai, faccio un discorso molto ovvio e forse anche banale, ormai purtroppo i media anche parlano sempre delle stesse cose, sì. E invece basta andare più là, essere un po' più curiosi, che in realtà vedi che c'è un mondo molto ricco e che magari non conquista le prime pagine dei giornali, però non lo so, io mi diverto molto di più a trovare persone che come queste, che hanno uno spessore, hanno qualità, hanno professionalità, ma non importa se poi non conquistano sempre, certo, le prime pagine, certo, dei giornali, quasi, sì, mai, però poi se uno guarda magari la terza pagina le trova, insomma. Senti, Piero, pagina mentale. Al di là di questi passaggi televisivi per Rai Scuola, questo tuo viaggio nella musica etnica, nella puntata veneta, questa doppia uscita, dove sarà possibile fruirli? Beh, intanto adesso hai fatto un ottimo ringrazio di questa domanda, perché mi stavo dimenticando. Intanto Rai Scuola è per un problema così di programmazione, perché anche la Rai forse non gode di ottima salute, e anche se è così, bene o male, insomma, sono riuscito a realizzare questo lavoro, in realtà è un lavoro unico tra Veneto e Sicilia. Per adesso ho diviso il Veneto e nella fattispecie hanno deciso di mandare in onda, diciamo, due gruppi in due giorni separati. Presto e andrà in onda in altre puntate di Rai Storia su Rai 3 intanto, e poi lo presenterò in anteprima col pubblico il 24 di novembre. Ci sarà un importante festival sul mondo del folk e del libro audiovisivo, cui parteciperanno antropologi, musicisti, no, ci sarà, io con Gualtiero Bertelli presenteremo questi due lavori sul Veneto, un'anteprima col pubblico, e questo insomma è importante. Poi mi auguro che girerà per i festival, insomma, diciamo che adesso è proprio appena uscito, insomma. Va bene, però allora penso che il Rai 3 lo almeno ci sono questi accordi, lo replicherà nella forma lunga, ecco. Ci sarà modo allora di riparlarne. Piero, io ti abbraccio, buon lavoro a questo punto. Grazie. Lavoro a tutti. A risentirci ciao, presto. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Piero Cannizzaro, regista del documentario Un viaggio nella musica etnica in Italia. Bene, siamo arrivati ai momenti finali di Visionari di quest'oggi, giovedì 18 ottobre, e chiudiamo in bellezza con Ginella Vocca, direttrice della 18esima edizione del Mad Film Festival, che sarà in tre luoghi: Casa del Cinema, Auditorium della Conciliazione, Spazio Cervantes qui a Roma, dal 19 al 28 ottobre. Ginella, ben ritrovata, visto che noi ci sentiamo praticamente una volta l'anno. Sì. Sono vari questi appuntamenti una volta all'anno, ma mi piacciono molto, devo dire. Non si sente tutta questa distanza, all'improvviso siamo di nuovo insieme. Sì. Allora, 18esima edizione comincia a essere un'età. Sì, siamo maggiorenni, e devo dire che siamo anche dei maggiorenni molto, molto ben impostati, seriosi, per cui siamo pronti ad affrontare le peripezie, se possibile ancora più, vorremmo lasciarci alle spalle quelle di un faticoso quotidiano cui ci costringono dei tagli violenti ai budget dedicati alla cultura, per dedicarci con ancora più passione e professionalità alla ricerca di film interessanti da proporre al pubblico italiano e romano in particolare. Allora, nel tuo caso, film provenienti da paesi del Mediterraneo, ecco, quanti paesi sono coinvolti? Guarda, quest'anno siamo riusciti a coinvolgere 28 paesi, sì, per un numero complessivo di circa 90 film, 60 anteprime nazionali, 22 ospiti internazionali, e in particolare avremo 10 lungometraggi in concorso ufficiale, 11 documentari nel concorso documentari, 19 cortometraggi in concorso, e poi avremo una interessante vetrina con 7 film dedicata alla Nuova Europa, premio Lux. E l'ospite d'onore quest'anno è la Slovenia, che sarà molto ben rappresentata con 7 lungometraggi, 5 cortometraggi e 2 documentari. Poi un bellissimo spaccato su una sezione dal titolo Africa Mediterranea, con 4 cortometraggi e 3 documentari, e la sezione Regard des Autres, che quest'anno arriva alla sua 7ª edizione, che racconta la capacità della Francia di accogliere e dare spazio alla creatività del Mediterraneo. E quest'anno abbiamo anche una bellissima incursione di Cine in Construcción, che appunto si terrà allo Spazio Cervantes. Senti, ci sono anche in qualche modo aree tematiche rispetto ai lavori presentati? Guarda, le aree tematiche più o meno sono sempre quelle, cioè noi abbiamo i nostri obiettivi, sono il racconto del tema dell'immigrazione, il sì, racconto delle culture di questi paesi, e credo che il tema più forte che sia venuto fuori quest'anno è l'individuo, è la modalità in cui l'individuo sta affrontando, e parlo appunto del Maghreb, parlo delle rivoluzioni della sponda sud del Mediterraneo, come l'individuo affronta e si pone di fronte a questi fenomeni. Mm-hmm. E parleremo di frontiere, questa è un'area tematica, parleremo dell'incontro appunto con l'altro, parleremo di un passato da elaborare, come accade per esempio nel film di Merzak Alouache, Le Repenti, che racconta l'Algeria oggi, e il suo percorso di elaborazione di un decennio devastante di terrorismo che negli anni 90 ha fatto almeno una vittima per famiglia. Poi avremo il tema della ricerca di identità con un film bellissimo, con il bellissimo film di apertura Noor. E questi, sì, se cerchiamo delle tracce tematiche più approfondite, sì, sì, le stiamo indicando. Appunto. Senti Ginella, per quanto riguarda la programmazione, quali indicazioni ci dai per la rete? Guarda, è molto molto difficile. Dunque, la programmazione sul sito www.medfilmfestival.org troverete tutto lì. Okay. È difficile segnalare dei film in particolare, perché veramente quest'anno dove cascate bene. Mi fa piacere ricordarvi che avremo un premio Oscar, e cioè l'attrice Laila Hatami, iraniana, che ha vinto l'Oscar l'anno scorso con Una separazione, ed è qui con un altro film molto interessante, The Last Step. Poi avremo dal Marocco Achim Bellabès con Boiling Dreams, Damian Cozzolè per la Slovenia, e Jan Čiktović, che è il regista di Archeo, in concorso sempre per la Slovenia, che è una rivelazione di questi ultimi anni nel panorama europeo. Poi avremo il regista di Parada e avremo ancora Merzak Alouache e Adila Bendimered, che sono appunto il regista algerino e la sua bravissima, strepitosa attrice Adila Bendimered. Bene, allora ricordiamolo, 18ª edizione del Mad Film Festival. I luoghi sono la Casa del Cinema, l'Auditorium della Conciliazione, lo Spazio Cervantes, e i giorni dal 19 al 28 ottobre. Io vorrei ricordare anche il premio Coinè, che mi sta molto a cuore, sì, quest'anno, perché lo daremo a Carlo Freccero, un libero pensatore in questo nostro paese in cui la libertà sembra quasi un'onta a volte, per la libertà di pensiero, uscire fuori dal coro. E lui è una personalità di spicco del mondo della comunicazione, è un raffinatissimo intellettuale, e a lui verrà conferito il premio Coinè, che è già stato di Tahar Ben Jelloun e Michelangelo Pistoletto. Il premio verrà conferito domani sera all'Auditorium della Conciliazione da Caterina D'Amico. Ginella, un abbraccio e a risentirci presto. A voi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ginella Vocca, direttrice della 18ª edizione del Mad Film Festival, e con lei chiudiamo questa lunga puntata di Visionari di giovedì 18 ottobre. Ci diamo appuntamento per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta il numero è 342 357 4357. Buon proseguimento!